belle au cautemano, au cautemano, belle au cautemano. Quello garçu che me mène me promeno, quello garçu che me mène pel buisso. Quello garçu che me mène me promeno, quello garçu che me mène pel buisso. Lo mario plulo, plulo lo bema, sono molo chi te nanto non rozzo mai. Lo mario plulo, plulo lo bema, sono molo chi te nanto non rozzo mai. Dotti e sporti, e na portalo bello, e di son comi a truno consu. Dotti e sporti, e na portalo bello, e di son comi a truno consu. Cautemene bello, cautemeno, cautemene bello, cautemeno. Quello garçu che me mene me promeno, quello garçu che me mene per buisso. Quello garçu che me mene me promeno, quello garçu che me mene per buisso.